Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Andrea Cunzi. A scuola di cucina italiana con le lame giuste. Dal tempo libero alle tavole degli chef. Di Anna Marino. Quello che viene comunemente chiamato coltellino svizzero, noi amiamo chiamarlo multiuso in realtà, perché la lama è una sola delle molteplici funzioni, fra l'altro quella che generalmente si usa meno. In Italia è amatissimo il cavatappi, perché siamo in una nazione dove si beve del buon vino, e ci sono un sacco di altre funzioni che vengono utilizzate normalmente. Io ad esempio in montagna lo utilizzo sicuramente per tutte quelle che sono le funzioni adatte alla vita all'aria aperta, pinze, seghe per il legno e così via, ma ci sono delle altre situazioni nelle quali si usa una forbice. Ero in una riunione, avevo il bottone della giacca con un filo che sporgeva e l'ho utilizzato per tagliare questo filo. Non solo il coltellino svizzero tipico dei picnic nel verde, ma anche la coltelleria sportiva, multiuso, quella da cucina e da tavola per professionisti e non. Andrea Cunzi conosce ogni dettaglio degli strumenti necessari per un buon piatto, ma anche per la nostra vita quotidiana. Strumenti che la sua azienda di famiglia, fondata a Milano nel 1936, Cunzi S.p.A., giunta alla terza generazione, non solo produce, ma commercializza in Italia e all'estero, in Europa e negli Stati Uniti. Oltre ad essere da più di 60 anni l'importatore esclusivo per l'Italia del marchio svizzero Victorinox, nato nel 1884, è specializzata in articoli di coltelleria, forbiciame, orologeria e prodotti di qualità legati alla vita all'aria aperta. E naturalmente Andrea Cunzi e la sua stessa famiglia sono legati a doppio filo alla Svizzera e al mito della precisione. La nostra famiglia è, sì, svizzera, rigorosamente direi svizzera, perché arriviamo da uno dei principali cantoni, il cantone di Berna. Il mio cognome è attinente di Wattenwil, un piccolo sobborgo nel cantone di Berna appunto. La nostra storia è iniziata negli anni 30 in Italia, quando mio nonno si trasferì per fare business nel bel paese, e iniziò con una piccola bottega in società con un amico, dove si iniziò a vendere degli strumenti da taglio, forbici, coltelli, pelapatate e altri prodotti per lo più di provenienza italiana. Successivamente andammo già a ricercare dei prodotti all'estero, perché entrando in Italia si vide che era più facile proporre prodotti made in Swiss o in altri paesi. E di lì nacque questo grandissimo legame nel 1937 con quella che ancora oggi è l'azienda che ci rappresenta meglio in Italia, che è Victorinox, la più grande coltelleria al mondo, che produce circa 25 milioni di pezzi all'anno e che noi rappresentiamo appunto in Italia da quasi 80 anni. Nella sede di Via Lazzaretto a Milano, il primo fondatore Adolfo Cunzi si stabilisce con uffici e magazzini, e da allora molti clienti sono rimasti gli stessi. Il primo fondatore, mio nonno Adolfo, era evidentemente, come tutti gli uomini di quel tempo, un pioniere. Aprì questa azienda, che in realtà era poco più che una piccola bottega, dalla quale faceva le sue prime vendite a quelli che erano i nostri clienti di un tempo, che per lo più erano degli ambulanti nelle varie zone d'Italia. Io mi diverto ancora oggi a guardare dei libri clienti di quell'epoca, nel quale tutto era scritto rigorosamente con la penna stilografica, e si vedono dei nomi che ancora oggi fanno parte dei nostri clienti e sono discendenti di quelle famiglie. All'inizio non vengono commercializzati solo prodotti di altri marchi, ma c'è una produzione legata al taglio, soprattutto di coltelli e forbici, che vengono venduti con il marchio AKM, acronimo di Adolfo Cunzi Milano. La produzione viene poi realizzata esclusivamente nel territorio italiano. La lavorazione dei coltelli era artigianale tra cassettiere e archivi, e i distretti erano punti di riferimento. All'interno di questa bottega In realtà facevamo degli assemblaggi perché la nostra vocazione era sempre stata, fin dagli albori, molto più in termini di vendita che di produzione. Ci avvalevamo sì di produttori nazionali, per cui nelle zone proprio della produzione di coltelleria e forbiciame in Italia, per lo più Nord Italia, Premana, Acanzo e Asso vengono prodotte posaterie. E poi nella provincia di Belluno c'è una forte produzione ancora oggi di coltelleria. In seguito si stabiliscono rapporti duraturi con marchi storici come Victorinox fin dal 1937. Rafforzati dal legame non solo commerciale, ma anche personale e di amicizia dei fondatori di entrambe le aziende. Dalla Svizzera arrivavano esattamente da dove arrivano oggi. Victorinox è nata a Schwyz, che in italiano è Svitto, che è un cantone sulle coste del lago dei Quattro Cantoni, poco sotto Lucerna, e ancora oggi la fabbrica, che si è ingrandita moltissimo con oltre 1.000 dipendenti, produce tutto rigorosamente in quel luogo. Poi c'è stata una crescita scandita dai cambi di sede e dai passaggi generazionali. Col passare dei decenni e l'aumento dei volumi di vendita, si amplia infatti la superficie sia degli uffici che del magazzino. Così la nuova generazione, guidata da Ugo Kunzi, figlio del fondatore, trasferisce la sede nella ditta a Bresso, in via Ariosto 13, alle porte di Milano. Alla fine degli anni 80 inizia lo sviluppo di nuove linee di prodotti, al di là degli strumenti da taglio, soprattutto elettronici. Nel 2008 la Kunzi si trasferisce sempre a Bresso nei capannoni che un tempo erano della gloriosa casa editrice Cino del Duca. Dalla piccola bottega in Milano, evidentemente dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo sfruttato, come moltissime aziende, quello che è stato il rilancio e nella nostra ultima nuova sede, che ha circa 16.000 metri quadrati, possiamo mettere a disposizione anche della nostra clientela per eventi vari e scuole sui nostri prodotti. E il mestiere di imprenditore fino alla terza generazione, guidata da Andrea Kunzi, è cambiato nel tempo. Con l'automazione, ma anche con altre linee di prodotto fuori da quelle legate agli strumenti da taglio. Campeggio, outdoor, strumenti elettronici, casalinghi, per l'illuminazione, come le torce, binocoli e visori notturni, timer, meteo, casalinghi, bottiglie in alluminio, sempre in sintonia con le esigenze della società. Pochi anni fa l'attenzione che si dedicava in metri quadri alla cucina era di gran lunga inferiore a quella che invece viene dedicata oggi. Devo dire, gli uomini soprattutto sono i nostri migliori acquirenti perché spendono di più per un oggetto di alta qualità. E la problematica che noi viviamo è che vendere prodotti di qualità ma non autoparlanti rende il tutto più difficile. E da qui la necessità di fare dei cosiddetti show cooking, dove noi spieghiamo all'interno dei punti vendita agli utenti finali, ai potenziali clienti dei nostri partner rivenditori, come si utilizzano i nostri prodotti. C'è una ricetta sempre attuale nella famiglia Kunzi per il passaggio generazionale, che Andrea concentra in queste parole. Il messaggio che ci siamo tramandati è quello di trend catcher, ovvero di cacciatori di idee. Già dai tempi di mio nonno si frequentavano le piccole fiere di paese, che poi sono diventate fiere internazionali con l'avvento di mio padre. E ancora noi oggi abbiamo una squadra di 6 persone che visita tutte le fiere più importanti nel mondo per andare a caccia di novità da presentare ai nostri distributori in Italia. Ma importante per l'azienda è l'attenzione all'ecologia e all'ecosostenibilità, anche e soprattutto in epoca di Expo, che riguarda non soltanto la nutrizione. Infatti anche la sede è ecosostenibile, una superficie di oltre 16.000 metri quadrati che privilegia le nuove tecnologie ecosostenibili, come la copertura del tetto con pannelli fotovoltaici, l'utilizzo di materiali ecocompatibili nella ristrutturazione, un'illuminazione di nuova generazione a LED per diminuire i consumi e sprechi di energia elettrica. La nostra fabbrica che rappresentiamo, Svizzera Victorinox, ad esempio, utilizza il calore che viene ricavato dai macchinari che sfocia dalla produzione, viene riutilizzato per scaldare circa 100 appartamenti attorno alla fabbrica. E noi in Italia abbiamo una fonte di energia rinnovabile che permette alla nostra logistica, ai nostri impianti, di attingere circa il 30-35% dell'energia che utilizziamo quotidianamente. Oltre a questo, siamo molto attenti al riutilizzo degli imballaggi per non creare problemi ecologici e tutto quello che riguarda i trasporti. E i talenti anche in cucina vengono rispettati nella famiglia Cunzi. A ciascuno il suo strumento. L'importante, dice Andrea, è la riuscita del piatto. Io in particolare mi diletto di più in quello che è il barbecue, per cui la griglia, il cucinare all'aria aperta. Quello che avviene invece di fronte ai fornelli di casa, per me è più mestiere della moglie che non mio. Comunque mi diverto a fare da assistente. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.